E allora 11:37, cambiamo un po' la tabella, che, diciamo, gli argomenti che avevamo dato, perché siamo riuscite a metterci in contatto con Stefano degli studenti medi, dei collettivi studenteschi di Torino, che non solo sul nostro territorio ma a livello nazionale vanno verso una data di mobilitazione. Allora il 5, la prima tappa di questo percorso sarà proprio un'assemblea che vedrà appunto la presenza di tutte le componenti della scuola. Stefano, ci senti? Esatto, eccomi qua. Okay. Sì, esatto, proprio come dicevi tu, adesso da Torino andremo verso la mobilitazione del 13 novembre, ma prima ci riuniremo in assemblea appunto per capire quali saranno le linee guida da darci per tutto l'autunno. L'assemblea, proprio come dicevi tu, sarà il 5 novembre in Cavallerizza alle 5, sarà un'assemblea insieme a professori e lavoratori della scuola più in generale. Appunto, come dicevo, sarà un'assemblea che darà un po' gli spunti su cui andare a contestare il governo Renzi e le sue politiche nella data del 13, ma per poi tutto l'autunno e tutto l'anno, ecco. Io torno proprio oggi da 2 giorni di Assemblea Nazionale di Studout, un'assemblea che riunisce tutti i collettivi auto-organizzati autonomi d'Italia, ecco. In questa assemblea qua si sono date un po' le linee guida comuni da percorrere verso tutto l'anno. Si è parlato un po' delle date precedenti che hanno visto in tutta Italia scendere gli studenti a contestare il governo e le sue politiche, a partire dal 2 ottobre, a partire dai primi giorni a scuola fino ad arrivare il 9. Dall'assemblea appunto si è rilanciato un periodo questa volta di mobilitazione in modo da far sì che tutte le città possano, tutte le realtà possano scendere nelle date che meglio credono, ecco. Quindi si è lasciata una settimana, 2 settimane di mobilitazione dal 9 novembre fino ad arrivare al 21, che appunto verranno città da Torino a Napoli, a Palermo, a Brescia, a Bologna e moltissime altre a scendere in piazza, ecco. Quindi in questa assemblea qua si è dato un po' le linee guida da portare avanti durante l'anno, a partire dal caro trasporti e caro vita, che sono comunque argomenti che non vanno sottovalutati. Inoltre poi si è deciso un po' di concentrarsi su diversi temi e campagne da portare avanti a livello nazionale, che sono quelle sul comitato di valutazione, ma la valutazione più in generale, quindi andare a boicottare quello strumento, quell'organo che sempre di più sarà radicato all'interno della scuola, e si occupa appunto di valutare inizialmente gli insegnanti, ma successivamente poi noi studenti già di più di quanto già lo facciano. E poi un'altra campagna che si è deciso di portare avanti a livello nazionale è comune, è quella contro gli stage, è affrontarli in una maniera diversa da come ci siamo sempre posti, e affrontarli in maniera proprio di campagna e di inchiesta con gli studenti che appunto frequentano questo lavoro non pagato, ecco. Quindi questi sono un po' gli argomenti che sono usciti dall'Assemblea Nazionale, rilanciando appunto su tutte le date di metà novembre, che vedranno tutta Italia scendere in piazza. Perfetto, Stefano, grazie mille. Appunto, gli spunti che hai lanciato come argomenti sono tutti interessanti. Ricordo in particolare l'altro giorno, sotto proprio la piazza, sotto l'ANCI, si sentiva intervenire molto studenti, professori, e era una professoressa che diceva proprio: i nostri studenti non sono carne da macello, per quella che viene chiamata alternanza scuola-lavoro, che poi di fatto è l'ennesimo, gamba a sostegno dell'ideologia del lavoro gratuito. Quindi noi non insegneremo ai giovani a non chiedere niente per le loro prestazioni lavorative e ad abbassare la testa, perché se no rimangono senza niente. Allora sicuramente tra questi cattivi maestri hanno una lezione che tanti studenti e studentesse dimostrano di aver già ben imparato, e di continuare anche a loro volta ad insegnare. Il 5 novembre in Cavallerizza alle ore 17, giusto? Esatto, assemblea congiunta con professori, personale ATA e studenti, ovviamente. Perfetto, e allora grazie mille Stefano, ci vediamo in Cavallerizza il 5 novembre, il 17, alle 17. Ain't nobody gonna tell me nothing. Ain't nobody gonna tell me shit, nah. Ain't nobody gonna tell me nothing. It's fairly stressful and it's hectic. Everybody trying to shit on my name, protect it. With my lyrics, with my fist, gorgeous female with a twist. Every time she moves the lips, it's another hit. And the haters can't stand it, and the fans keep standing. Los Angeles representing, born and raised, understanding. Not your average female, and I'm never gonna be good in the top five. Best rappers of all time, believe it. I see it in my people's eyes, evil desperation. Let her know they're not alone, a little piece of motivation. Yo, I spit it for my community. I spit it for my women. I spit it for the children and the folks locked up in prison. Got love for all skin tones, black, white, and yellow. Every time I pass somebody up on the streets, I be like, hello. Cause you never know what somebody's going through. And what goes around comes back around to you, Ain't nobody gonna tell me nothing. Meditate about my journey, positively progressing through my mistakes and steady learning. Admire the mentality of my mentors. Be grateful for what's yours. Opportunity knocks once, so be sure you're out the door. Stay humble and cocky. It's gonna take a bullet to stop me. Heard you sleeping your way to the top, and it's working, but that's not me. And it shocks me how people will sell their souls. But then again, how much is my soul really worth in gold? I've been told I'm valued. I've been told I'm worthless. I display a different persona to both sides on purpose. I'm hurting. I wanna hide. Sometimes I'm about to rock a show, but what I really wanna do is run away and cry. That's the life of a musician, gotta keep my composure. I'm scared as fuck, it's about to blow. I can feel it coming closer, so please pray for me, cause I have no faith. I'm only an old corrupted soul, trying to find a way, yeah. Ain't nobody gonna tell me nothing. E allora 11.45 andiamo avanti in questa mattinata redazionale di Radio Blackout. Ci arriva un cisti, posto di blocco carabinieri di merda in piazza Carlo Felice. E allora il cisti arriva al 346-6673-263, ricordiamo ancora una volta. Dicevamo stabilità, Chiamparino, regioni non garantiscono farmaci salvavita, Renzi convoca i governatori, ora ci divertiamo. E su Repubblica.it, la sezione economia e finanza, si dice che il governatore del Piemonte contro la manovra sulla sanità, il Premier, risponde con un confronto entro mercoledì prossimo, eliminano gli sprechi, le tasse devono scendere. I tecnici del Senato, Tasi limita i sindaci, critiche anche al tetto contante, pensioni, i fondi per il part-time, coprono 30.000 lavoratori, alert regioni, chiesti 17 miliardi nel 2017-2019, incerto il gettito dei giochi. E allora continua appunto quello che è un po' in balletto, che sta andando in scena da giorni sui giornali. Chiamparino, uno dei responsabili di quella che è diciamo la situazione in cui versa in cui versa la regione Piemonte, si permette anche di battere i piedi, non perché pensiamo che debba supinamente accettare le politiche del governo centrale, quanto perché sappiamo che poi de facto non c'è assolutamente nulla che sia in contrasto. Abbiamo visto come dell'altro ieri la notizia della chiusura effettiva del Maria Adelaide. La sanità in Piemonte, diciamo, sta virando sempre più verso una privatizzazione dei servizi, un abbassamento sostanziale delle prestazioni sociali. Ricordiamo che anche la riforma del nuovo ISE non è marginale rispetto a questo processo. Quindi si promettono incontri fino a giovedì, in cui ci sarà la conferenza Stato-Regioni, questa appunto incontro tra i governatori delle regioni e il presidente del consiglio. Rispetto a questa, diciamo, a questo accadimento siamo abbastanza distanti, abbiamo a riguardo la stessa opinione che un po' avevamo sull'assemblea dei comuni. Insomma, non ci interessa che cosa andranno a dirsi nelle suntuose stanze governative, a noi interessa che su questo territorio di fatto la sanità è un servizio sempre meno garantito. Questo suono lascia orecchie sporche, suona forte, aperti tipo cocce borghe, forse sotto agli occhi, frutto di nottate andate storte. Non porto morte, sono per la pace, ma quando suono 100 carabine caricate, spianate. Ho pentagrammi su cui scrivo come baffometto, 1000 drammi versus 1000 sogni ancora nel cassetto. DSA coltello a scatola sulla gola, anima vola, diffondi l'infezione come in via gola. In questi anni ho visto gente fuori per la disco, i nostri live la gente sprocca e sbocca sulla distro. Un attimo di attenzione, underground autoproduzione, col cazzo questa è una missione, cico. Aspetti il sole dal 96 ma ancora piove, tipo che vi lava la coscienza come un titolo 9. Ma la sostanza la conosco e te la sgamo, di essere più danno tosse l'underground italiano. Avverto il tempo che passa, io più forte ma non basta, contagio tipo scabbia, ringhio spavo come kamikabia. Kamikaze sulle case salvo con Barabba, scaglio un'altra pietra, porto levo la bellagra e rabbia. Se è andata magra io non salvo la nazione, quando spingo l'infezione porti indietro i tempi del taglione. Buffone, porti il mio che trancia le mani, vietnamite in questa video, le visioni come i veterani. Da sottoterra, corpo in guerra, sputano veleno, il suono che t'afferra ti divora come fosse un tremo. Underground Pride 24 non stop, panzer sulla traccia, Uber LS hip hop. Io che non lavoro niente cinema, non faccio sport, l'eco dei tamburi, il passo da Black Block. Come i Ramones, fanculo al ponton, la mia banda è una guerra. Sotterra al terrore della scena, questa è indipendente e violento, è l'ennesima mina, questa è una guerra online. Sotterra al terrore della scena, questa è indipendente e violento, è l'ennesima mina, questa è. Prendere sta merda come fosse vostra, modificarla, ridicolizzarla, metterla in pedana tra i pagliacci mostra. Per te rimango sì, mi giungi le mani e saluta, sentirti parlare di flow una brutta battuta. Voi fate scena muta, siete solo spazzatura, vi rimando a casa con 80 punti di sutura. Questa è cultura, tortura, fino al punto di rottura, dall'inizio alla mia sepoltura. Chiamami Mac Hussein, al mic un dittatore, apri il coltivone, porto il verbo, il canto dei pirati. Al vostro show, file di bimbi tutti accompagnati, ai nostri live alcolizzati, mentre li hanno ammanettati. Fate i soldati, noi veterani graduati, in cima alla collina, sopra tanker camu corazzati, fissati. Ma per sta merda siamo i più centrati della storia, voi siete puttane come in Estonia. Aspetta, a me non mi fanno effetto quando arrivo qui, affetto in sì con il mio getto di parole perfetto, quando calo giù diretto col comando e me ne fotto di tutto quanto quello che la gente vuole. Ho pochi numeri sul web ma c'è rap che spacca, in testa mille paranoie, sì ma c'ero l'acca. E un'altra tacca sul microfono che aggiungo, un altro rapper da tale show sul palco che finisce lungo. Sputo pili arsenico, sto qua per merito, senza la che puttana i giornalisti merda a seguito. Noi autoprodotti e soprattutto autodeterminati, menti criminali ancora non domati, soldati senza gradi, ma blocchi i cunicoli, figli mutanti di questa metropoli che siamo stati. A voi vi vogliono ignoranti omologati, i vostri idoli ridicoli, pupazzi manovrati. Sì, io sto nell'underground con Tom che aspetta, custodizza gli zingari agli ottoni col volume a secca, e la mia banda di bastardi da Savona con un suono che bastona, questo è danno dallo zoo di Roma. È una guerra, un illai, sotterra, terrore della scena, questa è indipendente e violento, è l'ennesima mina, questa è una guerra, un illai, sotterra, terrore della scena, questa è indipendente e violento, è l'ennesima mina, questa è. E 53 sulle libere frequenze di Radio Blackout, i 105.250. Per chi si fosse sintonizzato ora, siete all'ascolto di Parole Ribelli. E allora andiamo avanti, dicevamo un po'. Ah, innanzitutto rispondiamo a un messaggio che è arrivato al 346-66-73-263 che chiedeva il titolo della canzone, che della traccia che abbiamo appena passato. Sono i DSA Commando con il Danno Terrorizers dal loro ultimo album che speriamo di presentare prestissimo a Torino. Per chi non l'avesse ancora ascoltato, è una bomba. E allora dicevamo, abbiamo parlato un po' della pantomima di Chiamparino, il rappresentante non solo del PD al governo, ma soprattutto di quello che è il blocco di potere sul territorio piemontese, da sindaco di Torino a presidente della Fondazione San Paolo a presidente della regione, una regione ormai sull'orlo della bancarotta anche grazie e soprattutto alle politiche della Lega Nord. E allora in tema di Lega Nord abbiamo visto ieri un piccolo fatto di cronaca, diciamo tra virgolette, per noi universitari quasi ordinario, nel senso che mai è successo che lasciassimo spazio a questi individui nella nostra università. E allora, come ogni volta che arriva il Fuan, diciamo i buffoni fascisti che ancora provano a esistere in forma di rappresentanza studentesca, così è stato ieri quando è arrivato il MUP, il Movimento Universitario Padano. Sì, potete ridere, esistono, non è una presa in giro. Questo Movimento Universitario Padano, che appunto andava ancora una volta, perpetrava le proprie retoriche xenofobe e razziste, dicendo che diciamo è meglio essere immigrati in Italia perché si hanno molti più diritti. Allora ma giusto appunto la mattinata, diciamo, informativa è cominciata parlando anche delle occupazioni abitative che vedono una presenza migrante molto forte, perché poi di fatto le prestazioni sociali nei confronti di chi di fatto altro non fa che viaggiare, perché poi questa condizione di rifugiati, sfortunati, è sempre funzionale a che ci sia un'emergenza per cui qualcuno possa spendere dei soldi. E abbiamo rispedito un po' al mittente queste menzogne, ricordando anche che appunto la regione Piemonte è sull'orlo della bancarotta grazie a loro, ma soprattutto che di fatto poi come opposizione sono anche sempre stati al governo, quindi che prendono stipendi milionari per lamentarsi, fare la finta parte dell'opposizione e poi di fatto rapinare quelle che sono le risorse collettive in maniera perfettamente in linea con quelli che sono gli spropositati costi della politica. Ma andando avanti, diciamo allargando un po' lo spettro di quella che è l'azione di questo partito, vediamo che questa domenica si sono dati appuntamento a Bologna, appuntamento non solo tra di loro, un appuntamento con una kermesse, che potremmo dire, di quello che sono stati i rappresentanti del centrodestra fino adesso, che in questo momento si compattano questo 8 novembre in Piazza Maggiore a Bologna, diciamo dando un po' il via a quella che dovrebbe essere ufficialmente l'opposizione al governo Renzi. Bene, tra le strade di Bologna però si racconta un'altra storia, oltre l'invasione di questi barbari che arrivano al centro della città, invece c'è un quotidiano, diciamo, che sotto ai portici si sta organizzando. Allora siamo in contatto con con un compagno di Bologna. Ci senti? Sì, ciao a tutti e a tutte. Bene, allora, appunto, noi vorremmo sentire un po' l'altra versione di questa storia, perché le stronzate di Salvini le abbiamo sentite in, in tutte le salse, abbiamo anche avuto, diciamo, avuto purtroppo per fortuna l'occasione di ascoltare un'oretta di microfoni aperti su Radio Padania Libera, in cui, diciamo, abbiamo toccato con mano che questa data è particolarmente sentita dai leghisti. Bene, oggetto delle loro, del loro attacco sono sicuramente quei soggetti che invece animano la Bologna che è scesa in piazza sabato scorso, per esempio in difesa dell'ex Telecom, o che si organizza nelle università. Luca, se ci dai una panoramica un po' di come sta andando intanto il percorso di avvicinamento a questa data, e poi se ci dai qualche riferimento su eventualmente per chi si trovasse in zona in quel giorno dove andare. Ok, sì, come hai appena detto tu, c'è un percorso, no, che in queste settimane qua a Bologna ha costruito l'avvicinamento all'8 novembre, proprio perché crediamo, no, che non ci sia a Bologna, no, un riconoscimento, un consenso per questi personaggi, per questi leghisti e per tutta quella kermesse che appunto andrà in scena domenica. Sin da subito, quando abbiamo saputo che Salvini sarebbe arrivato a Bologna, abbiamo capito, ho cercato di, come dire, intuire qual era il nodo particolarmente politico principale su cui andava a intervenire in città. La prima cosa che ha detto lui era porterò la Bologna vera in piazza, che bloccherà le strade e creerà il blocco della città. Questa cosa non si darà per due motivi. Uno, perché ovviamente è mutato l'evento di domenica. All'inizio doveva essere la conclusione di tre giorni di blocco anche nazionale, poi alla fine è diventata, come abbiamo visto, no, questa sorta di kermesse elettorale che probabilmente tenterà di fare i primi passi, no, i primi embrionali tentativi di una campagna elettorale per un soggetto politico nuovo, reazionario, che sotto l'egida della condotta di Salvini possa ricomporre, no, le destre italiane. Quindi fin da subito abbiamo cercato di attaccarlo su quel livello là, e cioè di far vedere che non è vero che c'è una Bologna leghista che è pronta a bloccare la città, quanto piuttosto la Bologna vera, no, l'essenza vera della nostra città è un'altra, soprattutto per quanto riguarda il meticciato, la multiculturalità, no, che appartiene da sempre alla nostra città. Bologna è una città meticcia da sempre, è la città attraversata da studenti e da studentesse da tutta Italia, da tutto il mondo, quindi è completamente ostile e contraria, no, alla proposta leghista. Quindi è su questo, come dire, su questo terreno che abbiamo sin da subito cercato di attaccarlo. E poi, come hai ricordato anche tu pure prima, Bologna ha visto la scorsa settimana lo sgombro dell'ex Telecom, da un anno e mezzo a questa parte il movimento Lotta per la Casa è molto attivo. Un'altra cosa che Salvini ha cercato di fare, cerca di fare, è proprio questo, no? Mettere in guerra tra loro, no? La povertà, i poveri e le contraddizioni che questa produce. Anche lì abbiamo cercato, e questo è stato l'obiettivo del percorso di avvicinamento, cercato di smontare e decostruire completamente, con la prova dei fatti, no, questa narrazione. Bologna è la città meticcia dove i poveri si organizzano in maniera meticcia contro la ricchezza e gli abusi che la ricchezza produce su di loro. Quindi ecco, questa è un po' stata, come dire, la nostra idea generale con cui andare ad attaccare la kermesse di domenica. Poi che dire, come hai ricordato tu prima, loro andranno in Piazza Maggiore, si troveranno in Piazza Maggiore per il comizio. Noi abbiamo deciso di concentrarci, per chi insomma fosse in zona domenica, alle 10 sul ponte di via Stalingrado, da un certo punto di vista metaforico, per guardare la città dall'alto, no? Per posizionarci subito fuori dalla porta e poi andare a cacciare e a mostrare la nostra ostilità ai leghisti. Dall'altra, perché comunque quella è una delle arterie principali che conducono al centro di Bologna, e per noi la difesa di Bologna, no, si dà anche su questo piano qua, in maniera estremamente materiale, quindi bloccando quelle strade che potrebbero condurre gli stessi leghisti ad avvicinarsi a Piazza Maggiore. Perfetto, quindi se diciamo c'è un concentramento, un appuntamento diciamo a cui possiamo possiamo confluire se siamo in zona? Alle 10 su Ponte di Via Stalingrado ci concentriamo là e poi, come dire, allacciamo gli scarponi e ci immettiamo in città e siamo, come dire, ci immaginiamo una giornata lunga che contesti si opponga e mostri la propria ostilità in maniera determinata, ma comunque sociale, con tutte quelle forme che, come dire, l'odio verso la Lega può, in cui si può tradurre, e quindi siamo pronti, ecco, dal concentramento delle 10 per una lunga giornata di contestazione e di ostilità determinata nei confronti del comizio leghista. Quindi ci allacceremo gli scarponi intorno alle 10 e probabilmente non ci li slacceremo prima della serata, insomma. Perfetto Luca, grazie mille. Grazie a voi. Appunto, cioè, credo che ci sia poco da aggiungere a quel che hai detto, perché poi di fatto la politica della Lega ha fatto danni ovunque si presenta per quel che è, e nonostante abbia cercato poi magari di svecchiare un po' l'immagine della Lega semplicemente razzista e xenofoba, poi di fatto nell'atto pratico non solo continua a perpetrare questa ideologia, ma va a braccetto con chi poi impoverisce tutti e tutte. Grazie mille Luca, ci vediamo allora eventualmente con chi c'è domenica a Bologna. Ciao, grazie a voi. Θέλω να πω τόσα πολλά κι αυτά που σώσω μεγαλώνω. Θέλω τόσο να παλέψω σαν μου κλέψαν το χρόνο. Οξυγόνο θέλω κι άλλο τόσο σώπης μόνο. Κρατημένα έχω πολλά σας τα χρεώνω. Θέλω να πω τόσα πολλά κι αυτά που σώσω μεγαλώνω. Τόσο να παλέψω σαν μου κλέψαν το χρόνο. Οξυγόνο θέλω κι άλλο τόσο σώπης μόνο. Κρατημένα έχω πολλά σας τα χρεώνω. Στημένα λόγια και στα σύμικονα πέρασαν χρόνια. Θυμάμαι, πίστευα, μα τώρα έχει αλλάξει το χρώμα. Μάλλον πως είδα αρκετά και αποτραβήχτηκα τα κόλπα. Έγινε εξαίρεση να σπάω τον κανόνα. Βλέπεις, έτσι έχουν τα πράγματα. Και πούς ακόμα υποταγείς όλη τη δρόμα. Που πλασάρουσα μόδα καθυλωμένη στις κεραίες τους. Κανείς τον αγώνα. Γίνεται πόλεμος, ξυπνήστε, ήρθε η ώρα. Πίσω να γυρίσω, θέλω πάλι να ζήσω. Τότε που πίστευα πως όλα μπορώ να τα διεκδικήσω. Πως έχω αδέρφια στο πλευρό μου να κουμπίσω. Να σηκώσουμε γροθιές και να τα αφήσουμε όλα πίσω. Τώρα μίσος για άλλους αυτούς που εγκατέλειψαν. Στα λόγια ναι καλή, όμως τις πράξεις μάλλον στέρεψαν. Και πήραν κι άλλους στο λαιμό τους και κατέστρεψαν. Ό,τι ομορφέθησαν παρασυνθήκαν, δεν το έλεγξαν. Times have changed. E allora ci dicono al 346-66-73-263, controllori alla fermata Duomo salgono sul 4. Πίστεψε για μια φορά σε σένα και ξεκόλα. Έλα να παλέψουμε μαζί πριν αναργά. Αλλιώς να βάλουμε μπαρούτι πριν τελειώσει κάθε φορά. Κι ο κάθε στόχος μόνος τρόπος σωτηρίας. Δρόμος κι όμως δεν με πήρε σοβαρά. Μα τι είναι ο κόσμος. Μόνος μένει ο πιο θεσκυβικό κεφάλι. Κι όμως στη μάχη θα με βρεις πρώτη σειρά παρεπιπτόντος. Στη μάχη θα με βρεις. Στη μάχη θα με βρεις. Πίσω να γυρίσω για μια τελευταία φορά και να με δω παιδί μικρό που μόνο αγάπη είχε να δώσει. Πριν μου γεμίσουνε με μίσο στην καρδιά για να μου πω ποιος οποιοςδήποτε μπορεί να την πληγώσει. Να μου πω γίνε σκληρή κι ό,τι σου λένε μη μασάς. Η ζωή δεν είναι σαν τα παραμύθια. Κι όταν μεγαλώσεις πως συνέχεια θα πονάς. Όμως θα μάγεσαι για εκείνο το παιδί που σε σταλίνω. Το παιδί που σε σταλίδια. Το παιδί που σε σταλίδια. Θέλω να πω τόσα πολλά κι αυτά που σώσω μεγαλώνω. Θέλω τόσο να παλέψω σαν μου κλέψαν το χρόνο. Οξυγόνο θέλω κι άλλο τόσο σώπης μόνο. Κρατημένα έχω πολλά σας τα χρεώνω. Θέλω να πω τόσα πολλά κι αυτά που σώσω μεγαλώνω. Τόσο να παλέψω σαν μου κλέψει αν το χρόνο. Οξυγόνο θέλω, θέλω κι άλλο τόσο σώπης μόνο. Κρατημένα έχω πολλά σας τα χρεώνω. Yeah. Extraño mis noches de humos y sombras. Quiero hablar con Dani, quiero dejar de ser contra. Encontrarme con aquel niño sin su padre. No hay tiempo para mí, quiero un reloj más grande. Veo que ha sido mucho lo que la soledad me ha dado en la vida y ahora estoy saludable. Mentalmente en armonía, con ella siempre tenía tanta inspiración que todo se detenía. No pierdo el tiempo pues después no puedo encontrarlo. No encuentro las palabras para poder expresarlo. Mucho que me duele. La soledad me usa para escribir y tratar de enamorar mi musa. Me comunico en códigos que solo mi mente descifra. Exprimo este cerebro y luego las bocinas vibran. Antes rapeaba en casa, ahora solo en el trabajo. Quiero mandarlo todo por un minuto al carajo. ¿A dónde te fuiste, soledad? Te llevaste las palabras y ahora ya no encuentro ese momento de intimidad con mi alma, con mi ser y con mis propios sentimientos. ¿A dónde te fuiste, soledad? Te llevaste las palabras y ahora ya no encuentro ese momento de intimidad con mi alma, con mi ser y con mis propios sentimientos. Las letras tras de ti se fueron. Uno, dos, dos, tres, desaparecieron. Números tres, cuatro, cinco las sustituyeron. Números rojos sin sentimientos. Flash, flash, ojos, rojos, fotos, ojos, conocerme, creo, veo de reojo. Al ahogo del ego yo me apego, veo el espejo y no reconozco mi reflejo. Repito como eco palabras que están muertas, mi boca cementerio. La rocola está llena de canciones, las monedas eran tuyas, nadie toca mis botones. Maquillo mi vacío, desafino, desafío, no confío ni en mis propios pensamientos. No encuentro el tiempo en que juntas lentos bajábamos las armas, bebíamos recuerdos. ¿A dónde te fuiste, soledad? Te llevaste las palabras y ahora ya no encuentro ese momento de intimidad con mi alma, con mi ser y con mis propios sentimientos. ¿A dónde te fuiste, soledad? Te llevaste las palabras y ahora ya no encuentro ese momento de intimidad con mi alma, con mi ser y con mis propios sentimientos. Querida soledad, ¿por qué no viene y me acompaña? Siempre ha sido mía y de pronto me engaña. Ya no te quedas a ver el agua que cae del cielo. Te has perdido en la multitud en busca de consuelo. Hoy pienso en ella y los momentos que hemos vivido. Pongo el viejo vinilo, escapo al mundo del sonido. Perdido esperas que yo sea el que te busque. Si no es nuestro tiempo, no esperes que lo ajuste. Yo no deseo pelear, ni volverlo nuestro un pleito. Pero dime por qué te vas y contigo me deleito. Estás tatuada con tinta indeleble, disfruto cada uno de tus besos, hacen que yo tiemble. Liberas mi alma con un soplo de tu aliento, y ahora que no estás, tu recuerdo es mi alimento. Te he escrito poemas postales y no hay respuesta. Espero me extrañes igual que este cuando se acuesta. ¿A dónde te fuiste, soledad? Te llevaste las palabras y ahora ya no encuentro ese momento de intimidad con mi alma, con mi ser y con mis propios sentimientos. ¿A dónde te fuiste, soledad? Te llevaste las palabras y ahora ya no encuentro ese momento de intimidad con mi alma, con mi ser y con mis propios sentimientos. Propios sentimientos. ¿Dónde estás, soledad? E allora 12 e 11 sulle libere frequenze di Radio Blackout, siete ancora all'ascolto di Parole Ribelli. E come dicevamo in apertura di puntata e come si è già, diciamo, detto su questi microfoni, c'è una nuova occupazione abitativa in città. Le famiglie dello spazio popolare Neruda, dopo lo sgombero di qualche mese fa, si sono andate a riprendere un nuovo spazio in via Ciria 7, le famiglie Spazio Popolare Neruda, e non solo, perché ricordiamo che l'emergenza abitativa a Torino è diciamo così all'ordine del giorno che ha tutt'altro che il carattere dell'emergenza, sembra proprio parte, diciamo, della politica del governo della città che ci siano delle persone che stanno fuori, diciamo, che stanno per strada nonostante le case ci siano, tanto quelle popolari quanto non. E allora ancora una volta queste persone hanno detto no a questa condizione, hanno detto gli strumenti per rispondere ai nostri bisogni ce li abbiamo e non abbiamo bisogno di aspettare nessuno. E allora oggi ci sarà uno dei momenti di, diciamo, di uno dei primi momenti di incontro e di esplorazione di questo nuovo spazio, che come tutti sappiamo ovviamente servono quei 2, 3, 4 giorni per mettersi in sesto. Bene, oggi ci sarà un'iniziativa proprio un'iniziativa molto carina in corso Ciria, scusate allo spazio, ma siamo in diretta con Alice che ce ne parla. Alice, ci senti? Ciao a tutti, sì. Perfetto, ci racconti che cosa succede oggi? Sì, allora, semplicemente oggi alle 4:30 facciamo una festa con i bambini dell'occupazione di via Ciria 7, i bambini delle famiglie dello spazio popolare Neruda, che visto che sono nuovi in quartiere vorrebbero conoscere un po' di loro coetanei che abitano qua in zona. E quindi abbiamo lanciato questa merenda con qualche gioco, palloncini, trucca bimbi, per appunto cominciare a conoscere i nuovi vicini di casa. E oltre a questo chiederemo un po' alle mamme e ai papà che verranno insieme ai loro bambini un po' quali sono i bisogni che anche la gente nel quartiere ha, perché questa scuola è veramente molto grande e ci sono degli spazi oltre a quelli che verranno adibiti, che anzi stanno venendo assegnati adesso alle famiglie come abitazione, ci sono altri spazi che potrebbero essere usati per il quartiere. E quindi chiederemo anche ai genitori cosa manca qua in quartiere che vorrebbero avere, e lo faremo attraverso un'assemblea alle ore 6, che è l'assemblea solita di gestione dell'occupazione, però questa volta la apriamo appunto a tutti. Bene, direi che c'è, diciamo, oltre ovviamente un discorso politico che si porta avanti da ormai anni su questo territorio e non solo, su tutto il suolo nazionale, direi che c'è poco da aggiungere se non venire. Assolutamente, invitiamo tutti e tutte e non vediamo l'ora di avere un po' di vicini a casa. Se puoi ripetere l'ora e il luogo, così giusto per... Certo. Ore 16:30 in corso CD numero 7. Perfetto, per tutti e tutte coloro che volessero seguire le iniziative dello spazio popolare, le iniziative, anche, diciamo, le necessità, e di stamattina appunto un po' un elenco di necessità di oggetti che potrebbero far comodo, su Facebook le famiglie dello spazio popolare Neruda. Bene, Alice, grazie mille e ci vediamo oggi pomeriggio. Ciao. Ciao. Donde esté, yo te llevo aquí. Vaya donde vaya, siempre pienso en ti. Quiero hallarte ya si nuestras vidas compartir. Compañera de mis días, serás hasta el fin. Voy hasta el fin de la vida. Juntos como el ritmo y la poesía. Amame y confía. Eres la melodía que querían mis días. Y yo aquí te espero, aunque a veces me desespero. Y si no vienes luego, yo tendré que ir primero. Bien sabes que te amo tanto como un fanático. Que cuando vamos enojado, el tiempo no pasa rápido. En la cama recostado, mirando el techo, te pienso. Pregunto dónde estás, cómo estarás en mi recuerdo. área más preciosa del país. Y lo único que quiero es verte hermosa de feliz. Y ojalá que tú a mí, y ser el hombre de tu vida. Y que me ames con locura, sin dudas ni negativas. Como si cada día fuera el último en vivir. Y sos mi amiga, mi amante, al mismo tiempo y hasta el fin yo. Nos entendamos perfecto y entre tú y yo hagamos el mejor complemento. Que nuestro amor no disminuya nunca en magnitud, igualito al de los abuelitos de la película. Hagamos trato, ponte mis zapatos y yo los tuyos. Y acabamos con los malos ratos que nos da el orgullo. ¿Quién es el más duro? El muro que más resiste. Y al final los dos acabamos apenados, desolados y tristes. Te amo fuerte tanto como ayer. Y guarda todavía es un hormiguero cuando te ve. Quiero beber de ti hasta quedar borracho. Y es que mi mejor carrete sigue estando ahí entre tus brazos. Esté donde esté, yo te llevo aquí. Vaya donde vaya, siempre pienso en ti. Quiero hallarte ya si nuestras vidas compartir. Compañera de mis días, serás hasta el fin. Voy hasta el fin de la vida. Juntos como el ritmo y la poesía. Amame y confía. Eres la melodía que querían mis días. E allora in chiusura di puntata continua il nostro consueto appuntamento con le storie della buonanotte di Valderrama, ma prima, già che abbiamo appunto questo spazio dedicato al calcio, allora segnaliamo un articolo che ripubblicheremo a breve su InfoOut su cosa succede alla Curva Sud. Proprio il titolo è Cosa succede alla Curva Sud, prospettive di parte verso un derby surreale. E allora quello che diciamo si va un po' a discutere in questo articolo è di fatto come a che punto siamo con l'espropriazione di quella che è la passione comune tra le prime in Italia e quindi il primo terreno di mercificazione. Parliamo appunto del calcio, parliamo degli stadi. Nella Roma degli sgomberi e della repressione dura del dissenso, targata prefetto Gabrielli, non sono solo gli studenti occupanti di casa a risentirne. Negli ultimi due mesi, nell'occhio del ciclone e del dibattito, almeno capitolino, c'è anche la chiusura, barra diserzione, della Curva Sud, lo storico settore del tifo giallorosso. I tifosi della Roma, come gli altri del resto, sono anni che vengono vessati contro ogni forma di provvedimento repressivo e restrittivo, dando fede a una rapida ma indicativa cronologia, si può affermare che dal biglietto nominale si è passati ai tornelli, da questi si è arrivati alla tessera del tifoso, da quest'ultima a pratiche quali il super daspo, ovvero una diffida, l'interdizione a frequentare gli stadi per 8 anni, oppure al daspo di gruppo, è breve. Nel giro di pochi anni sono stati repressi i comportamenti quotidiani diffusi all'interno degli stadi. La storia degli ultimi 2 anni della Curva Sud parla però una lingua differente, poiché nessun altro settore ha vissuto l'attacco che tocca oggi a noi tifosi della Roma. La data spartiacque è una, il 3 maggio del 2014, il giorno in cui un tifoso della Roma spara, ferendo mortalmente un supporter del Napoli, Ciro Esposito. È il fatto che serve per dare un'ulteriore sferzata alle operazioni contro i tifosi, ma per tutti gli esperimenti serve sempre una cavia dalla quale iniziare. Questo criceto da laboratorio ha un nome, Curva Sud, che per tanti anni, tempi che chi si scrive non può ricordare, è stata il fiore all'occhiello del movimento ultras italiano, uno dei settori più popolati d'Europa, 17.000 spettatori e una capacità di mobilitazione in trasferta da fare infilia alle spedizioni militari di Napoleone. E allora si apre così questo articolo che diciamo è chiaramente scritto da una prospettiva precisa ed è quella dei settori 18 e 19, ovvero gli storici settori della Curva Sud, che sono stati recentemente divisi dai settori 20 e 21. E allora è lì che comincia diciamo la protesta della Curva Sud e che tuttora va avanti, che vede la curva svuotata. E allora sicuramente la prospettiva di chi tifa questa squadra, che è anche quella di chi vi parla, e che ama questo sport, ma soprattutto ama quello che l'essere tifosi insieme gli ha insegnato, ovvero un senso di comunità e di solidarietà, non può fare a meno di chiedersi che ne sarà, diciamo, di questa passione, che cosa ne sarà anche verso quella che è la stracittadina, la partita più sentita, appunto il derby surreale a cui si accenna verso nel titolo. E allora sicuramente appunto non è solo un discorso di amore che porta ad analizzare la parabola della curva sud, quanto il fatto che effettivamente non solo gli stadi sono sempre stati il terreno privilegiato di sperimentazione delle tecniche repressive, ma la curva sud in particolare ha visto, diciamo, è stata al centro di svariate contraddizioni. Sicuramente preziosa è la condanna allo snobismo di sinistra, che dagli stadi si è sempre, diciamo, tenuto alla larga, e allora diciamo la famosa profezia che si autoavvera di tanti e tante, ovvero gli stadi sono tutti di destra, gli ultras sono tutti di destra, e nel uscire completamente da quelli che poi sono settori che hanno migliaia e migliaia di persone, quindi dandone una lettura piatta, di fatto ad oggi la situazione è abbastanza così. E allora segnaliamo questo, appunto, ancora questo articolo su progettodegage.org e a breve su anche infoout.org. Ora torniamo appunto via dalla Roma di James Pallotta, che vuole chiaramente abituato al tifo composto dei suntuosi dei suntuosi stadi dell'NBA, e che vuole espellere i fucking idiots dalla curva sud. Bene, invece di staremo a vedere quale sarà, diciamo, la storia da raccontare riguardo a questo derby surreale, e intanto sentiamo Valderrama.